Quando allungo immobile nuotare dentro me, dal volto mio impassibile si levano mare, perché c'è un mondo isterico che scava intorno a noi ed alza su pareti dentro di noi. Come sai, staccato dai miei guai, ho colpe tali che le radici mi strapperei, le foglie per coprire poi il mio sorriso fertile, che sia presto visibile e la gente dirà: guardate lì quell'albero e come sale su e sfida l'impossibile, più bello non ce n'è, e buca il cielo e va più su, ma chissà di chi è, e mai nessuna verità abbatterlo potrà, perché la sua corteccia la mia ignoranza sarà. Addio mondo isterico, io me ne vado su, è solo il mio silenzio quello che mi porterà.